Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati, rieccoci alla nostra finestra settimanale sulla cultura internazionale. Beh, come abbiamo visto in queste settimane, l'Africa, la nostra Africa, ci sta franando addosso, ci sta invadendo con le barche dei disperati. Ci chiede di salvarla dalla miseria, dalla fame e dalle guerre. Ma chi è responsabile di questa catastrofe planetaria? E quali sono le colpe dell'Occidente sviluppato verso il sud del mondo? Non tutti gli storici sono d'accordo nell'addossare al colonialismo europeo tutte le responsabilità della condizione attuale del continente nero. Anzi, qualcuno vede nel colonialismo anche degli aspetti positivi. Di questo tema parleremo nella puntata di oggi della Finestra sul Cortile, ma parleremo anche di fantalinguistica, di lingue inventate e di altri temi che ora ascoltiamo nel nostro sommario. Francia. Lo storico Marc Michel spiega i risvolti positivi del colonialismo europeo in Africa. Australia. Sì, logo. I marchi più famosi diventano tatuaggi da sfoggiare sul corpo. Stati Uniti. Quando il progresso fa cilecca. I moderni treni americani sono più lenti di quelli degli anni 50. Francia. Marsiglia come Hollywood. Un artista propone di erigere una scritta con il nome della città come quella sulle colline hollywoodiane. Inghilterra. Gli studenti fanno la spia. Alla Manchester Metropolitan University i professori ritardatari vengono denunciati dai loro allievi. Stati Uniti. Un libro guida alla scoperta dei linguaggi inventati, dal Klingon di Star Trek all'Esperanto. C'era una volta l'imperialismo europeo. Era il 1879 e la Francia repubblicana commemorava l'abolizione della schiavitù. E Victor Hugo, il grande romanziere, che era anche un grande oratore, fece un discorso che più o meno di questo tenore. Il momento è venuto di far capire all'Europa che ha al proprio fianco l'Africa. Andiamo, popoli, impadronitevi di questa terra. Prendetela. Prendetela a chi? A nessuno. Questa terra appartiene a Dio e Dio dona la terra agli uomini. Dio offre l'Africa all'Europa. Quindi prendetevela, versate il vostro troppo pieno in quest'Africa e in un colpo solo risolvete le vostre questioni sociali, cambiate i proletari in proprietari. Insomma, muovetevi. Ecco, questa esortazione di Victor Hugo alle nostre orecchie di contemporanei può suonare politicamente piuttosto scorretta. Se poi pensiamo che questa era la Francia che si rifaceva ai grandi ideali della rivoluzione, ai grandi ideali dei diritti dell'uomo, è ancora più sorprendente che i toni siano questi, insomma, che ci sia un incitamento ad andare a impadronirsi di una terra e a calpestare i diritti di altri popoli. Ma qui era proprio la mitologia della missione civilizzatrice della Francia. Di questi temi parla un articolo sulle Figaro di Paul-François Paoli, che prende lo spunto da un libro di Marc Michel, uno storico francese, un libro voluminoso di oltre 400 pagine intitolato Essai sur la colonisation positive, che cerca di scoprire i risvolti positivi della colonizzazione dell'Africa. È vero, scrive Michel, che la colonizzazione dell'Africa ha avuto dei costi umani e sociali terribili per quei popoli, ha prodotto il lavoro forzato, ha strappato le radici culturali di molti popoli, ha prodotto e disseminato il razzismo, ma questo non toglie nulla allo slancio straordinario che ha animato tanti esploratori, geografi e missionari che si sono mossi e che hanno animato, diciamo, queste imprese. Il bilancio dell'esperienza coloniale, secondo Marc Michel, non è del tutto negativo, non è del tutto da buttare. Ecco, ma su questi temi abbiamo un ospite al telefono al quale diamo il benvenuto. Grazie a Sergio Romano di essere qui con noi. Grazie a lei. Sergio Romano è storico, appena ripubblicato la sua Storia di Francia, pubblicata da Longanesi nel 1981, con alcune aggiornamenti che arrivano fino a Sarkozy. Difatti il sottotitolo è Dalla Comune a Sarkozy. Ecco, io vorrei proprio leggervi un brano di questo libro che si riferisce proprio alla colonizzazione, anzi alla decolonizzazione. Lei ha scritto: la decolonizzazione è per la Francia una grave crisi di identità. I principi di democrazia e di progresso che hanno legittimato il suo colonialismo sono gli stessi che sembrano giustificare la rivolta, e una classe sociale eminentemente repubblicana assume obiettivamente, soprattutto in Algeria, una funzione reazionaria. Ecco, in questo senso, per la Francia l'uscire dalla sua esperienza coloniale è stata un'esperienza più traumatica forse che per altri paesi. Senza dubbio, lo è stato soprattutto per la sinistra francese. Non dimentichiamo che Mitterrand passò da una posizione alla posizione opposta. Quando scoppiarono i primi moti rivoluzionari della resistenza algerina nel 1954, lui era ministro degli interni e prese una posizione di difesa dell'interesse nazionale, difesa dell'Algeria francese. Soltanto più tardi, quando si accorse che la partita stava per essere perduta, passò dall'altra parte, ma non riteneva vi fosse alcuna contraddizione fra il suo essere democratico, parlo del 54 quando era ministro degli interni, e l'essere favorevole all'Algeria francese. Ma uomini come Albert Camus, per esempio, ma certo, nato ad Orano, rifiutò, figlio di Prépied-Noir, no? Esattamente, e lui rifiutò di assumere una posizione totalmente favorevole alla resistenza, perché capiva lo stato d'animo dei Pied-Noir e capiva questo legame che si era stabilito col tempo tra la Francia e l'Algeria. Del resto lo stesso Mitterrand, quando divenne Presidente della Repubblica per la prima volta, il suo primo atto fu un omaggio ad alcune tombe del Pantheon. Risalì la strada che porta alla piazza del Pantheon, entrò nel Pantheon e posò tre corone, di cui l'ultima sulla tomba di Victor Schoelcher, che era un uomo politico francese di origine alsaziana e il quale aveva promosso in Parlamento la legge per l'abolizione della schiavitù. C'è un nesso tra la campagna per l'abolizione della schiavitù e il colonialismo. È un nesso importante. Oggi abbiamo tendenza a dimenticarlo, ma allora fu importante. Ma infatti lo stesso Tocqueville, no, sosteneva che c'era una missione civilizzatrice nell'intervento delle potenze europee in Africa. Sì, e posso dirle una cosa che può apparire oggi paradossale? In alcuni casi questa missione civilizzatrice ha prodotto risultati positivi. Prende il caso dell'Algeria, per esempio. Se lei va in Algeria e parla agli algerini, si accorgerà immediatamente che, come dire, l'odio della colonizzazione francese fa parte in qualche modo della loro identità nazionale e della loro retorica patriottica. Non possono non dirlo, smentirebbero se stessi se lo dicessero, ma in realtà lo smentiscono continuamente con la loro intelligenza, con la conoscenza del francese, con la qualità del dibattito politico, tutte cose che la Francia ha dato loro in dono, grazie anche alla continuità del periodo coloniale francese dal 1830 al 1962, sono 132 anni. Sì, li ha aiutati a costruirsi anche una classe dirigente. Insomma. Assolutamente, è una intelligenza che è difficilmente comparabile con quella di altri paesi dell'Africa del Nord, soltanto a mio avviso l'Egitto ha qualche cosa di simile. Ecco, non si può dire lo stesso della dominazione italiana, che insomma non ha lasciato dietro di sé una classe politica locale. E non li ha lasciati per due ragioni, di cui una buona e l'altra pessima. La prima ragione, che è quella della relativa brevità del periodo coloniale italiano. Quella pessima è che, a differenza della Francia, noi non abbiamo portato i libici nelle nostre università, non abbiamo insegnato loro come diventare classe dirigente, non abbiamo preparato una classe dirigente. La Francia in qualche modo fu vittima della sua generosità, si trovò di fronte a un certo punto della gente che aveva preparato nelle sue scuole e nelle sue università. Ecco, ambasciatore, ma questa ondata di immigrati che noi stiamo fronteggiando in queste settimane è anche una conseguenza di errori commessi dall'Occidente, no? Cioè, questa catastrofe umanitaria che ci sta franando addosso è, diciamo, in parte originata da conflitti che noi stessi abbiamo contribuito a creare. Su questo sarei un po' meno, come dire, autolesionista, fra virgolette, naturalmente, perché ho l'impressione che vi siano grandi responsabilità delle classi dirigenti locali, postcoloniali, le quali hanno, come dire, tentato dei processi di modernizzazione che sono generalmente falliti. Certo. E la cosa buffa è che hanno tentato processi di modernizzazione ora ispirati al modello, diciamo così, dell'economia di mercato con tutte le varianti possibili e immaginabili, ora come nel caso dell'Algeria al modello socialista. sovietico socialista, qualche volta addirittura più sovietico, sia pure anche lì con un certo numero di varianti. Quindi anche loro, insomma, hanno le loro responsabilità, ecco, non dobbiamo eccedere, insomma, in complessi di colpa. Esattamente. Grazie ambasciatore e a presto. Grazie a lei. A risentirci. Grazie. E ci spostiamo in Francia, precisamente a Marsiglia, dove un artista locale ha pensato bene di copiare Hollywood e di erigere sulla collina di Marsiglia un'enorme scritta, proprio come quella che c'è sulla collina di Los Angeles, con scritto Marseille a grandi caratteri. E questo progetto gli è stato già approvato e dovrebbe essere realizzato in tempo per il 2013, quando la città francese sarà capitale europea della cultura. Beh, l'idea è buona e si potrebbe forse anche adottare a Milano per l'Expo. Si potrebbe scrivere Milano sulla montagnetta di San Siro e probabilmente sarebbe l'unico progetto ad arrivare veramente in porto. E andiamo in Australia, dove una società legale, un gruppo di avvocati specialisti in copyright e in marchi, ha fatto un'inchiesta tra i giovani per vedere che tipo di tatuaggi erano più diffusi e ha scoperto che 1 su 20 di questi tatuaggi è un marchio registrato. E al primo posto c'è l'Harley Davidson, al secondo la Nike, ma poi ci sono Louis Vuitton, Playboy, la Coca-Cola, Jack Daniels e così via. Altro che no logo, i giovani vogliono addirittura la griff stampata sulla pelle. E andiamo in America, sulle pagine virtuali della rivista online Slate, un curioso articolo di Tom Vanderbilt ci fa scoprire che non tutto in America progredisce, ci sono anche delle cose che vanno all'incontrario ed è il caso dei treni, perché consultando gli orari dei treni, anche quelli che antichi che si possono trovare su eBay, ha scoperto Vanderbilt che i treni americani sono diventati più lenti. Per esempio la linea New York-Montreal nel 1942, partendo da Grand Central Station alle 11:15 di sera, arrivava a Montreal alle 8:25 del mattino, cioè 9 ore. Adesso, per fare questo viaggio, i treni ci mettono 12 ore, e così da Chicago a Minneapolis negli anni 50 ci metteva 4 ore e mezzo, adesso 8 ore. Quindi, insomma, potremmo dire che i NOTAV in America resterebbero disoccupati. La finestra sul cortile. Tutti ricordiamo la lingua di Star Trek, della serie di film di fantascienza, il Klingon, la lingua di una tribù extraterrestre. E questo linguaggio in realtà ha molti estimatori e cultori, addirittura ci sono degli istituti che la insegnano. E c'è una studiosa in particolare, Arika Okrent, che una studiosa di lingue che si ha passato molti anni proprio a caccia di linguaggi immaginari, un'operazione, insomma, che potremmo chiamare di fantalinguistica. Ne parla il settimanale americano Time in un'intervista appunto alla stessa Arika Okrent, una studiosa che parla in maniera fluente l'inglese, l'ungherese e perfino il linguaggio dei segni dei sordomuti. Ma ha fatto un libro che si intitola per l'appunto In the Land of Invented Languages, nella terra delle lingue inventate, che racconta le storie di scienziati, idealisti e semplicemente persone eccentriche che cercarono di creare un loro linguaggio. Naturalmente i linguaggi più famosi, spiega Arika Okrent, sono l'esperanto e il Klingon, che era stato reso famoso da Star Trek, ma ce ne sono molti altri che la Okrent ha scoperto nelle biblioteche di tutto il mondo e che non hanno avuto uguale fortuna. Per esempio c'è un certo John Wilgart che inventò un linguaggio spaziale di simboli che secondo lui potevano essere comprensibili a un popolo alieno. E comunque addirittura c'è un altro studioso che inventò un linguaggio mutuato da quello degli scoiattoli, quindi fatto soltanto di suoni, di fruscie e di schiocchi delle labbra senza usare le corde vocali. Ma ci sono molti altri personaggi che nel corso degli anni, dei secoli, hanno cercato di costruire la lingua perfetta, una lingua razionale, per esempio senza verbi irregolari o senza sinonimi, una lingua semplice, immediatamente comprensibile, che potesse comunicare, e poi soprattutto c'è il grande sogno di una lingua universale che potesse unificare tutti gli uomini, tutte le persone della Terra. Ma tutte queste utopie hanno lasciato un po' il tempo che trovano. Ma di esperti di linguaggio ne abbiamo uno al telefono, che è anche un collaboratore del supplemento domenicale del Sole 24 Ore, e che salutiamo, Diego Marani, che abbiamo al telefono da Bruxelles. Benvenuto Diego. Ciao Riccardo. Scrittore, romanziere, funzionario dell'Unione Europea e esperto di linguaggi e soprattutto anche creatore a sua volta di una lingua che si chiama Europanto. Ci puoi spiegare meglio questa tua idea di una lingua europea che fonde tutte le lingue esistenti? Questo è un po', no, il tuo sì, obiettivo. Beh, la differenza fra me e gli inventori di lingue è essenzialmente che la mia lingua non vuole essere una vera lingua. Io non ho la pretesa di proporre la mia lingua come lingua universale artificiale. Il mio è un gioco. Con il mio Europanto, che è un miscuglio di parole preso da diverse lingue, io intendo così sensibilizzare la gente al fatto che le lingue si possono imparare, che sono accessibili, che non c'è solo la grammatica, che scimmiottando si impara molto e che l'errore è fecondo. Il mio è un invito a giocare con le lingue. Ecco, per esempio, mi è venuta in mente proprio qui a Bruxelles, lavorando qui nelle istituzioni europee, come dove interprete, le lingue, insomma, sì, appunto, come si mescolano, e dove capita spesso che, essendo tutti insomma più o meno poliglotti, ognuno possa parlare la propria lingua e capire quella dell'altro, insomma non sempre in certe combinazioni linguistiche più comuni. Beh, spesso ti sei divertito anche a fare come delle filastrocche, delle canzoni, dei testi, no? Cioè... Ho anche tradotto l'inizio della Divina Commedia in Europanto. Ecco, ce la puoi far sentire. Ma volentieri. Des meine life nel medio van der way, finde myself in eine bosco scuro, de justa via nescente donde stei. Dicere wat ich felt est mucho duro, perché van de foresta raccontante der terrible orrore non enduro, so close vas an der morte semblante. Aber por sei der bene dat ich finde, shall ich descrive wat was ich voyante. Sei meglio di Benigni. Sì, sono arrivato a 11 versi. Ho capito, però potresti, decasillabi. Potresti anche tu fare delle letture dantesche in Europanto e sicuramente avrebbero successo. Ma invece parliamo di lingue reali, ecco. I parlamentari europei, è uscito da poco un libro di un collega del giornale Caprettini in cui si descrivono un po' i vizi e le debolezze degli europarlamentari italiani. Viene fuori che la nostra rappresentanza a Bruxelles e a Strasburgo non brilla per conoscenza delle lingue. Nella tua esperienza che cosa... No, questo mai, ma noi ormai ci siamo abituati, noi non capiamo perché la maggior parte, non tutti, ci sono anche quelli che sono capaci di esprimersi in francese, in inglese e delle volte anche in tedesco, ma la maggior parte dei nostri delegati, rappresentanti, parlamentari qui a Bruxelles parlano male le lingue straniere. Questo penso che sia dovuto tanto al nostro sistema educativo e poi così alla cultura italiana, che è sempre stata poco avvezza a frequentare l'altro, a imparare la lingua dell'altro. Ringraziamo Diego Marani, a risentirci presto. Grazie, ciao. Studenti delatori. Succede in un'università inglese, la Manchester Metropolitan University, dove le associazioni degli studenti denunciano i professori che arrivano in ritardo a lezione o gliela fanno tranquillamente saltare. Questo naturalmente ha provocato le proteste del sindacato dei docenti, ma il vice rettore dell'Università di Manchester, Kevin Bonnet, ha detto: beh, che c'è di male? Noi stiamo cercando di incoraggiare delle attitudini professionali nei nostri studenti, compreso la puntualità. E allora dobbiamo comportarci in un modo professionale anche noi e dare il buon esempio. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini e Daniele Casagrande in redazione, Valeria Bernardi in regia. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.